X24, la storia. Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e davanti al popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. È il 3 gennaio del 1925, con queste parole pronunciate da Benito Mussolini davanti a un Parlamento muto e incapace di reagire, nasce la dittatura fascista. Dopo pochi giorni verranno messi fuori legge i partiti politici e le associazioni. La censura sarà sempre più ferrea e soffocherà la libertà di stampa. Insomma, è il regime. Ma perché quel giorno Mussolini ha proclamato quel discorso e non ha annunciato invece le proprie dimissioni, come molti si aspettavano? Quell'anno, l'anno appena trascorso, è stato uno dei peggiori per la storia politica di Mussolini. E quel giorno, il 3 gennaio del 25, ha cambiato il corso degli eventi. Ma per comprendere il senso di quel discorso, che di fatto legittima definitivamente la violenza del regime, dobbiamo fare un passo indietro e tornare al 10 giugno del 24, giorno in cui morì Giacomo Matteotti. Oggi a Mix24 vogliamo ricostruire la trama di quell'omicidio e il clima nel quale quel delitto maturò. Mussolini, presidente del Consiglio dal 1922, è uscito rafforzato dalla vittoria elettorale del 6 aprile del 24. Il listone fascista ha preso il 66% dei voti. Eppure, nonostante la schiacciante maggioranza, si dimostra incapace di gestire democraticamente la vittoria. A 2 anni dalla marcia su Roma, gli alleati, come la vecchia destra giolittiana, guardano con malcelata preoccupazione le prime mosse del governo di Mussolini e dei suoi accoliti. Dall'altra parte, le opposizioni tuonano contro brogli e corruzioni governative, supportati da una stampa con una tiratura 10 volte superiore a quella dei giornali fascisti. In questa situazione così intricata, il 10 giugno del 1924, Giacomo Matteotti, 39enne, segretario del Partito Socialista Unitario, una delle personalità di spicco dell'opposizione, viene rapito a Roma. Giacomo Matteotti è il primo cadavere eccellente del fascismo. Sul suo assassinio il regime prima rischia di crollare, poi invece consolida la sua ascesa. L'omicidio Matteotti resta dunque uno degli episodi chiave dell'ascesa al potere di Mussolini. E noi allora partiamo proprio di lì, e in primo luogo dall'analisi dei 2 processi che nel 26 e poi nel 47 hanno interessato gli esecutori del delitto Matteotti. E quindi, chi sono stati gli assassini? Chi i mandanti? È stata una morte accidentale oppure un delitto pianificato? E il presidente del Consiglio, Benito Mussolini, che cosa in realtà sapeva? Ma soprattutto, perché Matteotti doveva morire? Giacomo Matteotti nasce il 22 maggio 1885 a Frattapolesine, uno dei paesi più poveri del Veneto. Si laurea in giurisprudenza all'Università di Bologna e fin dagli anni universitari si collega al movimento socialista, di cui diventa rapidamente un esponente di primo piano, conducendo in prima persona le battaglie dei lavoratori agrari del Polesine. Durante la Prima Guerra Mondiale è un deciso neutralista e viene per questo dispensato dal servizio militare attivo e confinato in Sicilia. Dopo la guerra ritorna a Frattapolesine. Diventa prima consigliere comunale, poi sindaco e infine deputato. Il fascismo che combatte da subito è quello finanziato dagli agrari, particolarmente violento e attivo nelle campagne venete e romagnole. Già nel marzo del 1921 il giovane deputato è rapito e, a quanto si sa, ma lo stesso Matteotti cercò di dimenticare e far dimenticare, subisce uno stupro. Alle elezioni del maggio 21 viene confermato deputato, da dove deve assistere alla marcia su Roma. È il 28 ottobre 1922. Il 16 novembre del 22, sono passati 20 giorni dalla marcia su Roma, Mussolini è presidente del Consiglio e parla per la prima volta alla Camera. Parla e minaccia il Parlamento. Potevo, L'abbiamo sentito nel discorso di Mussolini, sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma almeno per il momento non ho voluto. Perché? Ce ne parla Emilio Gentile. Dopo la marcia su Roma è un fascismo che cerca di conquistare il potere attraverso una duplice tattica, quella del compromesso parlamentare, facendo finta di accettare le istituzioni parlamentari e di volere la collaborazione degli altri partiti, e quella della violenza perpetrata nei confronti dei suoi avversari. C'è stata l'aggressione ad Amendola e ad altri esponenti dell'antifascismo e anche dello stesso fascismo moderato e dissidente. Quindi c'era una pratica di violenza legittimata e autorizzata da Mussolini, la famosa CECA. La CECA è una sorta di agenzia segreta nata nel gennaio 1924 su proposta di Francesco Giunta, allora segretario del Partito Nazionale Fascista, e approvata dal direttorio del partito. Ascoltiamo Arturo Fasciolo, segretario personale di Mussolini. Questi erano agli ordini di Marinelli e andavano in qualunque regione a compiere delle bastonature, delle legnature, delle punizioni, insomma, dove si stimava necessario che dovessero andare. A Cesare Rossi e Giovanni Marinelli è stato affidato l'incarico di dirigere la struttura, mentre il comando operativo è nelle mani di Amerigo Dumini. A raccontare come suo padre sia arrivato al comando della CECA è proprio il figlio di Amerigo, Mario. E lui fino a 17 anni stava negli Stati Uniti, in Santa Pace. Quando ha saputo che c'era la Prima Guerra Mondiale e che bisognava dare una mano all'Italia, quella era una buona ragione per venire subito in Italia a arruolarsi. Ha fatto pure parte degli arditi di quel gruppo di soldati che durante la Prima Guerra Mondiale erano proprio specializzati nel fare azioni di comando contro il nemico, in questo caso contro gli austriaci. Invece che essere come i comuni soldati che stavano in trincea e andavano all'attacco, quelli andavano prima, intrufolandosi, entravano nelle trincee nemiche e facevano un piccolo massacro. Così si erano fatti le ossa, e questi sono i tipi più adatti per servire un partito quando deve diventare un regime sempre più forte. Erano dei giovanotti che amavano la bella vita e dipendevano direttamente dall'amministrazione del partito, in quanto erano finanziati da questi. Dai finanziamenti alla CECA con l'avallo dello stesso Mussolini ci sono molte tracce in archivio, e si tratta di richieste sempre più esose. Ne parliamo dopo la viabilità su Mix 24. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24, stiamo raccontando la trama del delitto Matteotti, avvenuto il 10 giugno del 24. Proprio nel 24 nasce la CECA, un'agenzia segreta con metodi violenti dove al vertice c'è il reduce di guerra Amerigo Dumini. Sui suoi metodi di finanziamento ha indagato lo storico Mauro Canali. Una società americana, una delle sette sorelle, la Sinclair Oil, da qualche mese aveva cominciato a fare pressioni su alcuni esponenti del governo fascista chiedendo l'esclusiva per la ricerca del petrolio, e aveva indicato nella richiesta due aree, la Valpadana e la Sicilia, dove in effetti poi molto più tardi questo petrolio si trovò. E questi uomini, questi americani, che come dire, avevano degli agganci seri all'interno del governo Mussolini. La cosa interessante, ad esempio, che Mussolini segue personalmente queste trattative. Tutto lascia pensare che parte di questi soldi finissero nelle casse del Popolo d'Italia. Benito Mussolini, una volta nominato Presidente del Consiglio, dopo la marcia su Roma, lascia la direzione del Popolo d'Italia e la affida ad Arnaldo Mussolini, che è, come dire, in qualche modo l'affarista di famiglia, è colui il quale, sempre per portare soldi al giornale naturalmente, non sto sostenendo che questi soldi servissero, finissero nelle tasche della famiglia Mussolini, ma certamente il giornale ha bisogno di finanziamenti, ha bisogno di grosse cifre. E proprio il Popolo d'Italia è un'arma importante per la lotta politica del fascismo, fatta anche di minacce. Ecco cosa scrive il 3 maggio del 23 di Matteotti. Quanto al Matteotti, volgare mistificatore e pregevolissimo ruffiano, sarà bene che gli si guardi che se dovesse capitargli di trovarsi un giorno o l'altro con la testa rotta, ma proprio rotta, non sarà certo in diritto di dolersi. Matteotti era deciso a denunciare tutta la corruzione e la commistione fra affarismo e politica che circondava il governo Mussolini. Siamo ai primi anni del governo fascista. Il governo fascista si muove ancora per il finanziamento in maniera, diciamo, maldestra e comunque anche per certi versi improvvisata. Mussolini, quando dà il suo beneplacito all'accordo, prega questi uomini della Sinclair Oil di rendere pubblico l'accordo soltanto dopo le elezioni del 6 aprile del 24. Il 1924 si apre con lo scioglimento della Camera e con la decisione di Mussolini di basare la sua campagna elettorale sulla costituzione di un listone aperto a tutti i partiti che sono decisi a contrastare il pericolo rosso. La paura dei comunisti è il cemento fondamentale della coalizione. Il 6 aprile si svolgono le elezioni in un clima di tensione. Il listone fascista conquista il 66% dei voti, alle opposizioni va il rimanente 33%. È comunque una vittoria disomogenea perché nel nord proletario gli oppositori ottengono più consensi dei fascisti. I seggi assegnati al listone fascista più i fiancheggiatori sono 374, quelli all'opposizione 161. Dopo le elezioni dell'aprile del 1924, Matteotti è la personalità che maggiormente denuncia proprio quel sistema di illegalismo istituzionalizzato che il fascismo ha imposto al paese ed è l'uomo che maggiormente si oppone a qualsiasi compromesso. Ed è per questo che viene controllato in maniera oppressiva. Gli si nega il diritto di recarsi all'estero. Nell'aprile del 24, subito dopo le elezioni, Matteotti deve penare non poco per effettuare un viaggio di studio e di incontro con altri esponenti socialisti, prima a Bruxelles, poi a Londra. A mio avviso, molte cose le deve aver sapute proprio nel corso di questo viaggio. Un documento è rappresentato dall'articolo che lui scriverà per una rivista inglese, English Life. In questo articolo, che uscirà postumo, lo dice esplicitamente, dice: io sono certo, ho raggiunto la certezza che c'è corruzione nei risvolti della convenzione Sinclair. Dunque Matteotti a Londra ha fatto delle scoperte clamorose sulla corruzione del governo di Mussolini. Ma intanto, tornato in Italia, riprende a denunciare violenze e brogli elettorali. E il 30 maggio del 24 si apre la nuova legislatura. Alla Camera sono presenti tutti i deputati, la tensione in aula è altissima. Il leader dell'opposizione, Giacomo Matteotti, chiede la parola. È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti, ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, le elezioni, secondo noi, non sono valide. Lo scontro alla Camera durante l'intervento di Matteotti è durissimo, mentre il capo del governo, Benito Mussolini, ascolta muto e impassibile. Lo stesso Matteotti è preoccupato per tutto quel clamore. Ai suoi compagni di partito dice di iniziare a preparare il suo necrologio. Ma è solo il discorso alla Camera a preoccupare il deputato socialista o anche le possibili conseguenze delle sue scoperte fatte sul governo fascista durante il soggiorno londinese? E ancora, a quel momento Matteotti già sapeva di essere pedinato da 10 giorni. Ascoltiamo Mauro Canali sugli atti istruttori del processo Matteotti. Gli atti istruttori documentano che il gruppetto della cieca fascista, composto da ex arditi capeggiati da Dumini, si mettono a pedinare Matteotti, lo cominciano a controllare a partire dal 20 maggio. Nei giorni seguenti non interrompe la sua attività, anzi annulla perfino una breve vacanza in Austria organizzata da tempo con la moglie. L'11 giugno è previsto alla Camera un altro dibattito sul bilancio dello Stato per il 1924-25. Matteotti passa le giornate a preparare il suo intervento. All'ultimo momento ci ripensa, non va in Austria, decide di rimanere e si iscrive a parlare in Parlamento alla Camera per l'11 giugno, per il giorno dell'apertura della Camera. Se Matteotti non parte il 7, l'unico giorno disponibile per farlo fuori, per impedirgli di parlare l'11, rimaneva il 10 giugno, cioè il martedì. Matteotti viene pedinato dal 20 maggio e secondo lo storico Canali, Amerigo Dumini e i suoi complici hanno il compito di non farlo intervenire nella successiva riunione della Camera prevista per l'11 giugno. Restano dunque 24 ore prima della seduta della Camera e Matteotti non deve parlare. Il 10 giugno del 24, martedì alle 16, Matteotti esce di casa ed è solo. Il 10 giugno, poco dopo le 16, esce di casa per recarsi alla biblioteca della Camera. All'angolo, tra via Scialoia e il lungo Tevere Arnaldo da Brescia, è ferma una lancia con 5 uomini a bordo. A raccontarcelo sono i figli dei protagonisti di questa tragica vicenda: Giancarlo Matteotti, figlio di Giacomo, e Mario Dumini, figlio di Amerigo. Me lo disse per la prima volta mia madre mentre eravamo in montagna. Ma la cosa, siccome era molto lontana, lì per lì non mi fece, disse che era andato via per un lungo viaggio, insomma, ci tenne un po' all'oscuro. Mio padre era fisicamente prestante per fare certi tipi di lavori, specialmente penso che lui fosse parte dei picchiatori, di quelli che andavano in giro a infastidire quelli dell'altrui partito, a intimorirli, oppure con l'olio di ricino a cercare di farglielo bere. Secondo alcune testimonianze, l'autista suona continuamente la tromba per coprire, in una Roma ancora con scarso traffico, le grida che provengono dall'interno della lancia. Sentiamo un altro testimone di quei momenti, Arturo Fasciolo, intervistato da Sergio Zavoli. Io lo venni a sapere la sera stessa. Avevo fatto appena due passi, mi sorprende putato, dice: sa, hanno ammazzato Matteotti. In quel momento venne fuori Dumini anche, mi fece vedere la borsa di pelle che avevano con dentro il passaporto di Matteotti e una lettera indirizzata all'onorevole. Fu un portiere che notò la macchina e, nonostante che gli si disse di no, lui ne prese il numero. Ecco, quello fu il fattore che condusse le indagini. I due portieri, infatti, hanno annotato i numeri di targa di quella lancia che si aggirava da alcuni giorni in modo sospetto. La targa corrisponde alla macchina di Filippo Filippelli, direttore del Corriere Italiano, giornale fiancheggiatore del regime. Ce ne parla Tullio Benedetti, deputato liberale, intervistato da Sergio Zavoli nel 1973. Questo giunse trafelato nel tempo che io facevo colazione. Loro, quando giunse trafelato Filippelli, a dire che era in gravissimo pericolo e che domandava aiuto e consiglio a noi altri per quello che poteva fare. Qualcuno gli consigliò, e credo che fosse il Naldi, di mettersi in salvo e di scrivere delle memorie che avrebbero servito nel caso che fosse stato ricercato, che fosse stato ristabilire la verità. Filippelli tenta di riparare in Francia, viene arrestato e comincia a collaborare raccontando quello che sa. La macchina lui l'ha prestata ad Amerigo Dumini. Questi, la sera del 10, si è recato dal Filippelli, al quale confida l'avvenuta uccisione di Matteotti. Spaventato, Filippelli aiuta a far sparire dalla macchina le macchie di sangue che la imbrattano, insieme ai segni della feroce lotta ingaggiata da Matteotti con i suoi aggressori. Amerigo Dumini ha dei complici fatti arrivare da Milano. Sono 7 persone. Aldo Putato, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Amleto Poveromo, Filippo Panzeri, Augusto Malacria, Otto Trischalt. Dumini confessa a Filippelli di aver ricevuto l'ordine di uccidere Matteotti da Cesare Rossi e Giovanni Marinelli, rispettivamente capo dell'ufficio stampa di Mussolini e segretario amministrativo del Partito Fascista. In pochi giorni gli esecutori materiali sono tutti fermati. Sono tante, troppe le stranezze e i dubbi su questa azione squadrista. I magistrati Tancredi e del giudice, convinti da subito del movente politico del crimine, impostano le indagini in tale direzione. Tutto ciò che accadeva attorno a Mussolini non era assolutamente qualcosa che avveniva contro la volontà di Mussolini. I principali mandanti del delitto Matteotti accertati erano i più stretti collaboratori di Mussolini. Su Mix 24 riprendiamo il racconto dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24, stiamo raccontando i giorni convulsi che seguono il delitto Matteotti. Siamo al 17 giugno del 24. L'indignazione non si ferma, scuote tutto il paese. Alcuni ministri si dimettono. I liberali passano all'opposizione, i cattolici e i socialisti si ritirano sull'Aventino, ovvero rifiutano di partecipare ai lavori. Alla fine di giugno, per rendere vano il boicottaggio, le sedute della Camera vengono sospese. Gramsci propone uno sciopero nazionale, poi per evitare scontri di piazza con le squadre fasciste lo annulla. Gli industriali si interrogano sulla fiducia accordata al fascismo, i nazionalisti e altri prendono le distanze. Il re tentenna, anche se 3 settimane dopo l'ambasciatore inglese così riferisce al suo governo. Una volta Sua Maestà mi ha detto di non aver mai avuto un primo ministro con il quale egli avesse più piacere di trattare che con il signor Mussolini. E so da fonti private che i recenti avvenimenti non gli hanno fatto mutare opinione. Certamente il delitto Matteotti mette in crisi il fascismo. È vero che dopo il 10 giugno Mussolini è in pericolo, è vero che il fascismo può disgregarsi, ma è proprio in questo momento che di fronte all'inerzia dell'Aventino, posizione certamente morale molto forte ma politicamente inefficace, il fascismo intransigente, il fascismo totalitario trova spazio per riprendere la sua iniziativa e spingere verso una soluzione autoritaria. Dal rapimento sono passati 2 mesi, ma il cadavere di Matteotti non è ancora stato trovato, nessuna traccia. Per il fascismo, l'abbiamo sentito, sono giorni difficilissimi. E quel cadavere, quello che può rappresentare quel cadavere, fa paura. Il 12 agosto la giacca insanguinata del deputato viene ritrovata in un canale di scolo sulla via Flaminia, all'altezza del 18° chilometro. Il ritrovamento è forse abilmente pilotato. Le perizie successive escludono che la giacca possa essere stata per 2 mesi nel posto del ritrovamento. Stessi sospetti a proposito della scoperta del cadavere avvenuta il 16 agosto in una fitta boscaglia a 150 metri di distanza dalla via Flaminia. Il cadavere è trovato in pessime condizioni, in una buca poco profonda, piegato in due e ricoperto da uno strato di foglie e di terriccio. Accanto una lima, che secondo le successive testimonianze sarebbe stato l'unico strumento disponibile per scavare la buca. Il 20 agosto, per volontà del governo, quasi in segreto, le spoglie mortali di Giacomo Matteotti sono trasportate da Monte Rotondo, vicino Roma, a Fratta Polesine, in treno. Ciò nonostante, lungo quel tragitto migliaia di persone rendono un ultimo silenzioso e commosso omaggio al deputato socialista. Ma torniamo ancora a quei giorni, i giorni dell'omicidio del leader socialista. Il governo di Mussolini è messo alle corde dalle proteste degli oppositori e dalle confessioni degli assassini di Matteotti. Il 20 ottobre Amerigo Dumini è interrogato in carcere a Regina Coeli, così il figlio di Dumini, Mario. L'ho sentito mentre parlava con alcuni, con qualche amico che lo andava a visitare. La sua squadra doveva prendere il signor Matteotti e interrogarlo, come si usava fare a quei tempi, interrogarlo probabilmente sotto minaccia, qualcosa di simile, e per fargli dire se era lui il responsabile dell'omicidio di alcuni fascisti in Francia. A proposito del movente, Dumini ha sempre sostenuto che il rapimento di Matteotti fosse stato deciso all'improvviso per interrogarlo sull'uccisione in Francia del capo della sezione locale del fascio, omicidio voluto da una fantomatica organizzazione segreta di cui Matteotti sarebbe stato il responsabile. Ancora Mario Dumini. E poi quando sono andato a prenderlo ha fatto molto resistenza, mentre lui guidava la macchina, gli altri 5 che erano tipi un po' più violenti si sono lasciati andare o con i pugni o con qualche cos'altro, perché dicono pure c'è stata pure una coltellata sotto l'ascella. In più lui dicono che era tubercoloso e quindi per i pugni avuti può aver avuto uno sbocco di sangue. E quindi è morto in macchina dopo pochi minuti che l'avevano preso e lo stanno portando via. Una tesi, quella sostenuta dal Dumini, forse credibile sulla dinamica dei fatti, ma inattendibile quanto alle motivazioni. Al punto che non sarà neanche sostenuta dalla difesa nel processo a Chieti dell'anno successivo. Il vero movente va ricercato nell'entourage del Presidente del Consiglio attraverso gli uomini da subito coinvolti nell'affare Matteotti, che sono Cesare Rossi, Marinelli, De Bono, lo stesso Mussolini. Ma la verità è difficile da portare a galla. Mauro Canali. Secondo me Mussolini è il mandante. Lui ha protetto fino all'ultimo, in una maniera anche, se vogliamo, come dire, esasperata proprio, gli esecutori del delitto. Dunque, tutto porta a Benito Mussolini come mandante del delitto Matteotti. Ma nel 24 in Italia c'era ancora una figura al di sopra di quella del capo del governo, era quella di Vittorio Emanuele III, re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione. Ovviamente la personalità che maggiormente in questo periodo gioca un ruolo chiave, perché l'intervento del re dopo il delitto Matteotti avrebbe probabilmente mutato la situazione italiana, ma anche in questo caso, senza dare giudizi morali, si può affermare che il re, trincerandosi nella sua ortodossia costituzionale, sostiene di non poter mandare a casa un presidente del Consiglio che gode ancora della fiducia della Camera e del Senato. Il re, la sua scelta, in ogni caso, a favore di Mussolini, l'ha già compiuta e nulla può indurlo a cambiare idea. Emblematici in tal senso alcuni episodi. A tre ex ministri, Carlo Sforza, Giovanni Amendola e Ivano Bonomi, che gli portano documenti e prove sulla complicità di Mussolini nel delitto Matteotti, Vittorio Emanuele III ribatte. Sono curiosi gli italiani, vogliono essere salvati. Un popolo deve salvarsi da sé. Sempre il re, rivolto a Mussolini, che non ha alcuna intenzione di dimettersi come pretendono Piazza e oppositori, lo rincuora così. Fa benissimo a non tenere conto di quelle stupidaggini. A novembre si riapre il Parlamento, dove il governo ottiene maggioranze schiaccianti. Unici a rientrare dall'Aventino sono infatti i comunisti. Così Umberto Terracini, futuro presidente dell'Assemblea Costituente, intervistato da Zavoli. Il loro rientro nell'aula seguì al rifiuto da parte dell'Aventino di una proposta formale che era stata adesso presentata da Gramsci. Quella precisamente che l'Aventino si trasformasse e dichiarasse Parlamento e incominciasse ad agire come il vero Parlamento nei confronti della accozzaglia fascista che continuava a raccogliersi a Montecitorio. L'Aventino non accettò questa proposta, la quale avrebbe certamente aperto una fase di lotte acutissime che probabilmente sarebbero anche sboccate ad un confronto armato. Le mosse fatte in questo periodo non sortiscono alcun effetto, anzi sono solo dannose per l'inchiesta sul delitto Matteotti. Va aggiunto però l'incapacità degli avversari del fascismo di capire che il fascismo non era affatto, come loro pensavano, in crisi e in agonia. Basti pensare che nel giugno Anna Kuliscioff, nelle lettere personali a Turati, scrive che il fascismo è ormai un regime in agonia, che nell'agosto del 1924 Gramsci al Comitato Centrale del Partito Comunista dichiara che ormai il fascismo è come un impiccato e la corda la reggono i fiancheggiatori. E ancora nel novembre la Kuliscioff e Turati credono che il fascismo sia ormai un cadavere in putrefazione. Mussolini ha ormai perso la bulia che lo aveva caratterizzato nel secondo semestre del 24, grazie alla connivenza di Vittorio Emanuele III e alla disgraziata tattica dell'Aventino portata avanti dall'opposizione, ha resistito al momento più difficile. Ora è pronto a rompere gli indugi. Come prima mossa, il 4 dicembre del 1924 fa diramare un comunicato nel quale si dichiara personalmente contrario alla ratifica della convenzione con la Sinclair. Nasconde quindi qualsiasi traccia della corruzione presente nel suo operato di governo. Poi promuove segretario di partito il RAS di Cremona, Roberto Farinacci, che da tempo spinge affinché il fascismo rivendichi la legittimità dell'omicidio Matteotti. E infine aspetta un altro errore dagli avversari, errore che purtroppo non tarda ad arrivare. Gli oppositori infatti considerano l'operato dei due magistrati, Tancredi e del giudice, troppo attendista. E così Giuseppe Donati, direttore del Popolo, organo del Partito Popolare, promuove una clamorosa iniziativa. All'inizio del dicembre del 24 presenta una denuncia formale di correità contro il senatore Emilio De Bono, all'epoca del rapimento capo della polizia. È un vero boomerang. De Bono, senatore secondo le regole dello Statuto Albertino, può essere infatti indagato solo dai suoi pari. L'indagine viene improvvisamente tolta ai due magistrati ordinari e tutti gli incartamenti sottoposti a una commissione senatoriale. Tutte le carte in mano a Tancredi e del giudice da questo momento non sono più segrete per i vertici del fascismo, che possono preparare così delle contromosse. L'indagine del Senato si risolve in un nulla di fatto. De Bono viene assolto per insufficienza di prove, viene esclusa qualsiasi legame tra il delitto Matteotti e gli squadristi della CECA. Su Mix 24 continuiamo il racconto dopo la viabilità. Breaking news. Una perquisizione da parte degli agenti della Digos è in corso nella sede della Federcalcio nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Napoli. Nell'indagine risulta indagato per tentata estorsione il presidente della Lazio e vicepresidente federale Claudio Lotito. Mix 24. La storia. Bentrovati su Mix 24. Il lavoro della magistratura ordinaria sul caso Matteotti viene di fatto interrotto per più di 6 mesi. Le opposizioni si giocano le ultime carte e Mussolini risponde alla Camera il 3 gennaio del 25. In molte città ci sono manifestazioni di giubilo. Alcuni fascisti si strappano platealmente il simbolo del fascio littorio dalla giacca. La sera, un giornale del sud arriva ad annunciare le dimissioni di Mussolini, ma il Duce sta solo prendendo tempo. È annunciato un suo discorso importante per il 3 gennaio in Parlamento. Il giorno di San Silvestro a Roma si tiene un'assemblea dei consoli della milizia e da lì esce un ultimatum per il Duce, espresso rigorosamente con il voi d'ordinanza. O rompete gli indugi e noi vi siamo accanto, o tutti in prigione, compreso voi, che però ci resterete per sempre. Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e davanti al popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano ad impiccare un uomo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Il 3 gennaio viene instaurato il regime fascista. Il 12 gennaio un decreto disciplina severamente l'apertura di ogni circolo e vieta a ogni dipendente pubblico di far parte di qualsiasi tipo di associazione. Sarà esteso poi ai magistrati, ai docenti universitari e perfino alle associazioni combattenti, quelle che gli avevano dato non poco appoggio nella fondazione dei fasci, ma che stanno sempre più ostentando una posizione di dipendenza nei suoi confronti. Il regime può avere inizio. Dunque, se a 6 mesi dal delitto Matteotti il fascismo diventa una dittatura, Mussolini si assume la responsabilità politica del delitto. Non ha più nulla da temere, non teme le indagini, eppure continua a interessarsene. Cerca di condizionare l'istruttoria e spinge Farinacci, segretario del Partito Fascista, a prendere la difesa di Dumini e degli altri indagati. Di che cosa ha paura il Duce? Del giudizio della storia? Oppure teme il fantasma stesso di Matteotti? Nel giugno del 25, conclusi i lavori della commissione senatoriale con l'assoluzione per insufficienza di prove a carico di De Bono, riprende l'attività della magistratura ordinaria. Ma nel frattempo i due magistrati inquirenti, Tancredi e del giudice, sono stati trasferiti ad altro incarico. Troppo indipendenti per essere ben accetti al regime. Al loro posto vengono nominati i giudici Albertini e Del Vasto. Quest'ultimo è il cognato di Farinacci, ovvero il giudice istruttore a legami di parentela con l'avvocato difensore. Ma non basta. Nel luglio viene promulgato un decreto di amnistia per i cosiddetti reati politici. Sembra fatto apposta per il delitto Matteotti. Tutti i possibili mandanti, Cesare Rossi, Marinelli, lo stesso Filippelli, sono esclusi dal procedimento. Il processo si svolge nel marzo del 26 a Chieti ed è pressoché una farsa. Dumini, Poveromo e Volpi vengono condannati a 5 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, di cui 4 anni amnistiati. Dopo sole 2 mesi saranno liberi, ma Lacria e Viola saranno invece assolti e scarcerati. Se seguiamo le vicende biografiche poi di questi le vicende personali di questi uomini, vediamo che tutti quanti finiscono in qualche modo per arricchirsi, cioè il regime è molto generoso nei loro confronti. Quando Dumini fa capire di essere stato in grado di mandare all'estero un testamento con la storia del delitto, Dumini dice: io ho ricevuto l'ordine di uccidere Matteotti perché Matteotti si accingeva a parlare alla Camera per denunciare l'accordo petrolifero tra la Sinclair Oil e il governo Mussolini, che chiamava in causa l'addirittura morale del fratello di Benito Mussolini, Arnaldo. Quindi Dumini viene mandato in Libia e gli si consente un facile arricchimento. Dumini in Libia diventa un ricco colono che fa affari loschi, e nel corso dei quali Balbo, che è governatore della Libia, si lamenta continuamente con Mussolini perché è costretto a sopportare e a chiudere gli occhi di fronte alle manovre, agli affari, agli intrallazzi di questo assassino che ha il via libera a ogni tipo di traffico. Dumini, nel suo testamento pubblicato solo negli anni Ottanta, ammette dunque che Matteotti è stato ucciso perché non rivelasse nel suo discorso alla Camera quello che aveva scoperto, cioè le tracce della corruzione del regime nell'affare Sinclair Oil. Potere e soldi, dunque. E proprio il denaro, alla fine, avvolgerà in questa storia tutto e tutti, compresa la famiglia Matteotti. Siamo stati tenuti per molti anni sotto sorveglianza della polizia, Io, mio fratello, mia madre, c'erano 4 o 5 macchine a disposizione che ci dovevano seguire dappertutto. Non si capisce perché, dicevano per protezione, ma... All'archivio centrale dello Stato ci sono documenti che attestano il pagamento da parte del regime alla vedova Matteotti, umiliata e tenuta lontano dagli amici del marito. Finanziarla significava anche togliere dalle mani dell'antifascismo esule in esilio, togliere questa bandiera che era rappresentata dalla famiglia Matteotti. C'è anche una relazione del capo della polizia Bocchini a Benito Mussolini, che testimonia dell'incontro avuto con la signora Velia Ruffo in Matteotti in occasione di uno dei pagamenti. Bocchini dice, con accento sommesso nei riguardi del marito, Velia arriva a chiamarlo vittima di un momento storico, cioè di fronte ai carnefici, di fronte a chi aveva dato ordine di uccidere il marito, la vedova si piega a sfumare le responsabilità di questi personaggi. Questo controllo sulla famiglia andrà avanti per tutto il ventennio. Mussolini continuerà a essere ossessionato dal suo ex compagno socialista fino alla fine, fino a Piazzale Loreto, poi chissà. A Piazzale Loreto l'Italia chiude il capitolo fascista. L'anno dopo la Repubblica Italiana riapre il caso Matteotti a 22 anni dall'omicidio e a 20 anni dal primo processo. La verità sull'omicidio Matteotti viene finalmente completamente a galla. Uno studioso francese, in modo un po' paradossale, ha affermato che il delitto Matteotti apre la strada ad Auschwitz. Certo, è un'affermazione molto forte che io non condivido, però non c'è dubbio che il delitto Matteotti simbolicamente apre la strada al totalitarismo in Italia e quindi al totalitarismo in Europa. Perché dico questo? Perché vedere il delitto Matteotti come un incidente, qualche cosa di imprevisto, qualche cosa che spinge il fascismo verso la dittatura quasi in maniera involontaria, è secondo me un errore storico, un errore di prospettiva che non tiene conto che il fascismo, andando al potere, ha già chiara la volontà di conquistare il monopolio del potere politico, usando non solo la tattica parlamentare, ma la violenza contro gli avversari politici.